la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, benvenuti da Oscar Giannino qui alla versione di Oscar, venerdì 20 dicembre, sono le 16.35 e 20 secondi. Sapete che la legge di stabilità si avvia sempre più zoppicantemente alle battute finali, non mancano sorprese abbastanza negative di ogni tipo. Tra le mancate coperture dell'IMU abbiamo appreso all'ultimo giorno, anzi non è ancora l'ultimo giorno, come sapete siamo alla fine del seconda lettura da parte della seconda Camera, poi bisogna riassestare facendole tornare rapidamente indietro la prossima settimana le modifiche, però abbiamo scoperto per esempio che sull'IMU mancano ancora 300 milioni di copertura dopo 8 mesi, e quindi saranno minori tagli per esempio alle bollette energetiche. Troverete l'approfondimento sul Corriere della Sera. Il giudizio è negativo da molte parti perché la svolta è mancata, ma oggi ci vogliamo occupare, visto che ci oltretutto avviciniamo alle feste, di un aspetto che nella legge di stabilità non ha trovato ascolto, ed è un aspetto fondamentale. Perché? Perché lo Stato, che continua a dire di non avere abbastanza risorse per sé, dovrebbe a maggior ragione incentivare, dare spazio, agevolare tutti noi che vogliono in maniera privata, per libera scelta, donare, sostenere finanziariamente. Che cosa? Il terzo settore, quello che si chiama così, il non profit, quel vastissimo universo di molte decine di migliaia di enti, associazioni, organizzazioni non a fini di lucro, che nella società italiana, come in molti altri paesi, si danno da fare per una molteplicità di cause socialmente e civilmente di grandissimo impatto. Si danno da fare per la ricerca su patologie avanzate che non gode di sufficienti risorse nell'ambito del perimetro della ricerca pubblica, si danno da fare per il sostegno ai disabili, ai malati, agli anziani, si danno da fare per la cultura. Stiamo parlando, ricade sempre nel perimetro del terzo settore, anche tutto quello che riguarda gli enti di ricerca e le università, e poi associazioni sportive, tutto ciò che insomma riguarda la complessità di ciò che non è pubblico ma insieme fa vita associata a fini di elevazione del capitale sociale. E su questo oggi la puntata è dedicata a capire come e perché sia giusto. Telefonate se fate parte di questo mondo o se vorreste che venisse più aiutato, il numero è 800240024. Ancora una volta la richiesta da parte delle migliaia di associazioni del terzo settore italiano rivolta allo Stato di avere un meccanismo più certo e più giusto di incentivo ai privati che vogliono donare e finanziare questa parte di mondo sociale così fondamentale è rimasta inascoltata. Ricordo a tutti che noi abbiamo da diversi anni a disposizione nella nostra legislazione un sistema, ce l'abbiamo da metà degli anni 2000 in parole povere, per il quale nella dichiarazione dei redditi i contribuenti possono scegliere se destinare una parte del proprio reddito a questa parte di mondo sociale, al terzo settore, alle onlus. È il meccanismo cosiddetto del 5 per 1000. Se non che cosa avviene da anni? Avviene che lo Stato, di fronte alla sete delle sue entrate, non devolve davvero alle migliaia di soggetti del terzo settore la somma derivante a propria volta dalla scelta di molti milioni di contribuenti italiani, la libera scelta che fanno nella propria dichiarazione dei redditi, ma anno per anno, a seconda delle proprie esigenze di cassa, per far quadrare i conti, pone un tetto alla cifra che viene devoluta alle associazioni del terzo settore, un tetto che è naturalmente di molto inferiore a quello che dovrebbe corrispondere se davvero rispettasse le scelte di voi contribuenti in ascolto. Lo Stato decide unilateralmente di fare in maniera diversa, e quindi negli anni si sono accumulate centinaia e centinaia di milioni di euro che voi nella vostra dichiarazione dei redditi avete indicato che avreste voluto andassero al terzo settore, e invece non ci sono andate. Ogni anno puntualmente il terzo settore chiede ai governi di diverso colore in carica: bene, stabilizziamolo questo meccanismo, riconosceteci il principio del rispetto della libera volontà dei cittadini italiani. E di volta in volta questo appello cade purtroppo nel vuoto, perché lo Stato dice: io ho un'esigenza prioritaria. Di questo parliamo oggi con una nostra ospite, con il direttore generale di una associazione che si dà da fare nel campo di una delle patologie più terribili, quello della sclerosi multipla, è la ISM, e con noi Antonella Moretti, grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, forse ho commesso qualche eccesso di semplificazione tecnica nello spiegarlo, ma l'appello che voi avete lanciato, avete comprato anche pagine di pubblicità a vostre spese sui quotidiani nazionali le settimane scorse, che tipo di ascolto ha avuto quest'anno rispetto agli anni scorsi? Lo stesso tipo di sorda indifferenza oppure no? Alla fine il risultato finale purtroppo è lo stesso degli anni scorsi. Quest'anno, proprio per cercare di essere anche ancora più autorevoli e far sentire meglio la nostra voce, abbiamo creato un coordinamento che ha visto ben 19 associazioni presenti, proprio per portare come unica istanza all'attenzione delle istituzioni la richiesta che, come ha appena detto lei, si leva forte dal terzo settore, ossia quello di stabilizzare la misura del 5 per 1000 che ogni anno veramente è affidata al rinnovo, diciamo, della volontà di mantenerlo e con la conseguente impossibilità da parte di tutte le associazioni di poter pianificare a lungo termine degli interventi che si basano principalmente sui fondi che arrivano dal 5 per 1000. E l'altra importante richiesta era l'abolizione del tetto. Come appunto diceva lei, non sempre quanto è destinato dagli italiani, anzi direi che negli ultimi due anni non è successo, viene poi effettivamente trasferito tramite il 5 per 1000 alle associazioni che sono state prescelte. E noi abbiamo fatto un'azione non solo di comunicazione sulle pagine dei giornali, ma abbiamo anche portato le istanze direttamente all'attenzione dei parlamentari, ricevendo in diverse occasioni interesse ed ascolto e anche impegno a portare avanti la nostra causa, ma di fatto poi alla fine, nella stretta finale, il 5 per 1000 è stato sacrificato. In realtà anche nella commissione bilancio del Senato ben 17 senatori su 27 avevano sottoscritto uno degli emendamenti che appunto portava avanti la richiesta dell'innalzamento del tetto, almeno portarlo dai 400 ai 500 milioni per il prossimo anno, ma poi i meccanismi di approvazione della legge di stabilità non hanno permesso, diciamo, di meccanismi quanto. Lei giustamente diplomaticamente dice meccanismi di approvazione, io dico la ragioneria di Stato, che è quella che dice sì o no alla richiesta di emendamento. Quindi i tecnici della ragioneria di Stato anche quest'anno rifiutano di rispettare la volontà del contribuente. Se fate il conto, lo dico a chi è in ascolto, delle cifre negate rispetto alla libera espressione della volontà dei contribuenti al terzo settore, noi stiamo parlando negli anni di moltissime, di diverse, perdonatemi, centinaia di milioni sommati, quindi stiamo parlando di più di un miliardo da che il meccanismo esiste, un miliardo di euro che i contribuenti avrebbero voluto dare a chi lo impiega per queste finalità. E ripeto, oggi è con noi il direttore generale dell'associazione che si occupa della lotta alla sclerosi multipla, ma dentro c'è l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro, c'è Amnesty International, c'è l'Associazione Italiana Celiachia, c'è il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, Teleton, Greenpeace, Medici Senza Frontiere, c'è di tutto. Ecco, lo Stato ha deciso che questo miliardo è rotto, no? Ma loro non glielo dà. E quindi io dico la ragioneria generale, sono più tagliente rispetto a lei, dottoressa Moretti. Comunque, da questo punto di vista le faccio una domanda: come si fa a organizzare i vostri bilanci di anno in anno preventivamente quando non si ha la certezza di risorse così elevate che i contribuenti vorrebbero darvi e non vi entrano? Uno obiettivamente deve fare dei bilanci molto conservativi e quindi tagliare su progetti di ricerca, su progetti di assistenza. È questo che succede. Soprattutto non può pianificare a lungo termine, intanto perché la sua domanda mi dà, come dire, spazio per sottolineare il terzo problema che è legato al 5 per 1000, quindi oltre alla non stabilità anche il ritardo con cui le somme vengono erogate. Sostanzialmente proprio è dovuta anche alla pluralità di amministrazioni che sono coinvolte, con scarso coordinamento fra di loro, disfunzioni interne alle stesse, diciamo, forse anche amministrazioni. Di conseguenza ci sono circa due anni di ritardo nell'erogazione delle somme. Questo da una parte ci fa inserire all'interno dei bilanci la voce relativa alle dichiarazioni dei contribuenti italiani dei due anni precedenti, ma nello stesso tempo di anno in anno noi non sappiamo se possiamo continuare usufruire di questa forma di sostegno dei cittadini italiani per il futuro. Perché l'anno prossimo, improvvisamente, magari con la legge di stabilità a fine anno, voi potreste sapere che il contributo per l'anno che sta finendo lo Stato non ve lo dà. E a quel punto, cari ascoltatori, voi capite che tutte queste cose di storie, di cose che sono insostituibili, perché lo Stato non le fa, non è in grado di fare, e stiamo parlando di cose socialmente, sanitariamente, assolutamente straordinarie, capite che come si fa a metterle in atto da parte di chi lo sa fare e lo vuole fare, non per fare profitto, al posto e meglio dello Stato, e ti trovi a fine anno lo Stato l'anno prossimo che dice: ragazzi, io non vi do un euro. Ma vi rendete conto che cosa abbiamo accettato che avvenisse in questi anni? E adesso, nell'interrompere perché abbiamo l'informazione stradale, butto lì un'altra cosa che a me scandalizza, magari molti di voi in ascolto la considerate invece giusta. Nel decreto governo Letta per il cosiddetto abolizione del finanziamento dei partiti, che non è un'abolizione perché ci sono 3 anni, per cui dal tetto di 91 milioni annuo poi si azzerano al quarto anno, il meccanismo di vantaggio fiscale per chi aiuterà con una decisione privata, libera, i partiti, voi dovete sapere che è previsto da chi ha scritto a questa bozza di provvedimento, cioè dal governo attuale Letta, fino ai 20.000 euro di donazione, il vantaggio fiscale è 12 volte superiore se lo darete a un partito piuttosto che alla ASM che si occupa della sclerosi multipla o della ricerca contro il cancro e così via. 12 volte superiore, è giusto? Io alzo la voce perché mi stanno a cuore i malati e chi si dà da fare per la ricerca e per assistere. Io lo considero una specie di pugno in un occhio ideale di tutti noi, perché non riesco a buttar giù una roba per cui continuando in un sistema di finanziamento agevolato ai partiti la deduzione, l'aiuto fiscale è 12 volte superiore rispetto a chi si batte per i malati e per chi muore. Per me, questa è la mia maniera di essere civile, ho tanti difetti, ma non riesco a buttare giù uno Stato che dice che per la politica darà l'incentivo 12 volte superiore a chi non solo non glielo dà, glielo nega da anni rispetto alla libera volontà e di anno in anno gli fa aspettare fino al 31 di dicembre per sapere se gli darà e che cosa gli darà rispetto a quello che voi a casa avete deciso liberamente di scegliere nella vostra dichiarazione dei redditi. E ripeto agli ascoltatori che mi dicevano: ma cosa hai detto sui partiti? Ve lo ripeto, se andate a vedere l'articolo 8 del provvedimento del governo Letta per la cosiddetta abrogazione del finanziamento dei partiti, l'articolo 8 parla delle incentivi fiscali alle libere donazioni ai partiti che dal quarto anno dovrebbero sostituire la graduale diminuzione dell'attuale monte di 91 milioni di euro annuali pubblici ai partiti, troverete che la detrazione prevista in caso di donazione ai partiti è del 52% fino a 5.000 euro e del 26% fino a 20.000. Per il terzo settore stiamo parlando di un 26% che però vale fino a un tetto di 2.000 e pochi euro, quindi se voi immaginate 20.000 euro donati con questo regime proposto dal governo Letta a un partito, varranno detrazioni per 6.500 euro. Per la sclerosi multipla invece per sole 542 euro. Io lo reputo uno scandalo, ma questa è una mia opinione personale. È con noi Antonella Moretti, direttore generale dell'ASM, che è l'associazione che si occupa della sclerosi multipla. Non la voglio mettere in difficoltà nel chiedere quale sia la sua opinione di cittadino rispetto a una disparità così elevata tra incentivi fiscali al terzo settore e ai partiti. Lei che pensa? Io credo che su questo i cittadini italiani potranno riflettere, perché come diceva lei, le cause di cui si occupano le associazioni che lavorano nel terzo settore sono spesso negrette, oppure non hanno altri fondi se non quelli che mettiamo a disposizione noi. Quindi chi dà un sostegno, una donazione per la ricerca scientifica sa che sta contribuendo a sostenere l'ente principale che finanzia la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla in Italia oggi. Se non ci fosse l'associazione con la sua fondazione, oggi la ricerca su questa malattia non sarebbe ai primi posti nel mondo come lo è, e questo è stato grazie, diciamo, al lavoro che noi abbiamo potuto fare, ma esclusivamente con il supporto di cittadini, di aziende, di fondazioni che nel corso degli anni ci hanno sostenuto nei nostri progetti. E sicuramente avere la possibilità di dire a chi ti sostiene che c'è anche un incentivo sotto questo profilo è importante. Ora, diciamo che la possibilità che è stata data ai partiti dovrebbe, almeno io penso, essere garantita anche al terzo settore. Ritengo che questo sia... Sono completamente d'accordo con lei. C'è qualcuno tra gli ascoltatori che non capisce, dice: ma che cavolo stai dicendo 12 volte ai partiti? Ripeto, su 20.000 euro, se lo date all'associazione per la sclerosi multipla oggi, la detrazione è 542 euro. Se li darete con il testo Letta ai partiti, sarà di 6.500. tra 542 e 6.500, 12 volte è il multiplo della detrazione, quindi è proprio scandalosamente così. Aspetti un secondo che abbiamo degli ascoltatori che vogliono intervenire. Cominciamo con Salvatore da Genova. Prego Salvatore. Sì, buonasera. Allora, io faccio volontariato e noi abbiamo 5 per 1000 di richiesta come onlus. Sì. Allora, il problema è che se queste associazioni, o tramite uno studio di fare, intendassero una causa di appropriazione indebita, dicasi indebita, e noi abbiamo firmato per donare questi soldi a queste associazioni non lucrative, sembra una cosa un po' giusta, perché io do... Quindi lei dice, Salvatore, perché non pensare a un'azione legale? Ci sarà un giudice a Berlino, lei dice, per cui un patto non rispettato dallo Stato di fronte alla libera volontà espressa dal contribuente, magari un giudice dirà che bisogna cambiare. È un'idea, Salvatore, adesso la sottoponiamo ad Antonella Moretti. Ancora Bruno da Piacenza, prego Bruno. Buonasera, io sono di un'organizzazione di volontariato che si chiama L'Arte del Vivere con Lentezza. Noi lavoriamo nelle carceri, in India e così via. Abbiamo rinunciato alla richiesta del 5 per 1000 perché è complessa sul piano burocratico. Il commercialista mi ha detto: ma guardi, tanto per quello che ci arriva non è il caso di farla. Se lo faremo è semplicemente perché la gente ci continua a dire: ma perché non fate il 5 per 1000? Ma in realtà non arriva niente alle piccolissime associazioni. Io propongo invece uno sciopero, perché lo sciopero del volontariato bloccherebbe totalmente l'Italia. Se non lo facciamo è solo perché per una questione che pensiamo a tutti quelli che stiamo aiutando e che possiamo aiutare. Però di fatto, se pensa, l'Italia in questo momento va avanti grazie al terzo settore e grazie alle persone che gli danno da fare. Questo per me non è in discussione, Bruno. Sentiamo Antonella Moretti. Chi dice: ma avete pensato negli anni a una specie di azione di tutela legale, a incardinare un procedimento nei confronti dello Stato? Che risposta dare a chi chiede questo? Le associazioni hanno prima di tutto provato a dialogare, perché questo riteniamo che sia la strada giusta nei confronti di chi ci governa, e quindi questo è quello che abbiamo voluto fare anche quest'anno, in maniera forse anche più articolata e anche più incisiva rispetto a quello degli anni scorsi. Certo che può anche esserci come ultima ratio anche questa strada, che si vorrebbe evitare di intraprendere se a meno che non diventi strettamente necessario. Capisco l'osservazione fatta, perché effettivamente negli ultimi 3 anni non è stato più un 5 per 1000, cioè allora bisognerebbe correttamente parlare di una misura che di anno in anno diventa del 4, perché in realtà effettivamente ci sono stati oltre 200 milioni che non sono stati di quelli che i contribuenti avrebbero attribuito al 5 per 1000, che poi in realtà lo Stato non ha devoluto. Quindi poi dal punto di vista legale si possono ovviamente andare a fare tutte le verifiche del caso e vedere gli spazi che ci sono. Fino ad oggi il terzo settore ha privilegiato un confronto diretto e un dialogo per sensibilizzare ulteriormente lo Stato a mantenere i suoi impegni. Certo è che non ci fermiamo qua, e questo è sicuro, cioè la risposta ultima che ci è stata data non ci soddisfa, e abbiamo intenzione di continuare diciamo il nostro percorso, il nostro cammino per ottenere quello che riteniamo spetti alle associazioni. Io me lo auguro. Ringrazio Antonella Moretti di essere stata con noi, ringrazio voi per aver ascoltato e spero di avervi sensibilizzato. Continuate con Radio 24, appuntamento a lunedì.